è bello anche trovarsi in un momento diverso, un po' più anche rilassato, con stare qua in questa biblioteca. Sono ormai diventato quasi un lusso per noi poter fare qualcosa qui. La ringrazio molto, ringrazio voi della vostra presenza e le lascio la parola, è tutto suo. Ma ringrazio. Grazie mille, sì. Dottore. Viene, il dottore viene da Salerno, è laureato in biologia, ha fatto studi, ha lavorato, adesso è una appassionata di Alto Adige, posso definirla così, e quindi è bello anche, mi piaceva anche questa cosa di scoprire, di sentire raccontare e descrivere l'Alto Adige da una persona che non è di qua, insomma, che ha un occhio diverso, sì, no? Ci siamo abituati a parlarci tra di noi, invece è bello poi sentire anche altre opinioni, altri punti di vista, anche scientifici, come in questo caso. Benissimo, ringrazio. Grazie, dottore, a lei. Posso dire una cosa? Soprattutto l'Alto Adige sceglie il lago di Carezza. No, ha colto l'insegno, no? Questo vabbè. Frequentazione trentennale. Comunque ho fatto un sopralluogo sabato pomeriggio. Sì. È sempre bello, ma un po' prosciugato. Sì, colori fantastici, sì. Purtroppo però è un po'. Questo po' è il momento peggiore. Ecco. Sì. Sa perché? Perché fanno la neve. Ma non siamo ancora in stagione. Guardi che noi siamo un gruppetto molto interattivo. Lei è pronto? No, perché qua poi arrivano le domande, le cose, le richieste. Adesso facciamo altre sette. Ma piacere, perché io raccomando sempre che non siamo mica così bravi. Perché io spesso ho da fare con un pubblico che rimane silenzioso. No, noi siamo interattivi. Invece a me piace. No. A sentire dei consigli, perché per esempio la prima cosa è questo filmato qui che ho fatto accompagnato da musica. Se per favore lo mandi avanti. Sì, adesso cliccare su riproduce filmato, cosa è successo? Perché certamente, diciamo, io vi faccio vedere una ventina di immagini di questo là. Siccome sono prezioso questo immagine, dovrebbe essere accompagnato da delle musiche non fatte, queste sono fatte da me, però in effetti uno deve riuscire a mettere insieme una piccola orchestra, dargli il giusto peso a queste immagini. Accontentatevi di questo è un esperimento che ho fatto, lo provo a migliorare anche per la scelta dei che accompagna. Qui adesso è il caso di fare attenzione alle immagini. Qui noi vediamo una prima immagine che riguarda il lago Broggio. E quello che c'è da osservare, questa immagine scura, c'è da osservare che il lago, cioè l'acqua trasparente, l'acqua diciamo pura, riflette le immagini in una maniera migliore che non vedendoli direttamente attraverso l'aria. Quindi l'acqua fa da filtro e ci dà una riflessione, diciamo, delle immagini molto più efficace, più pulita, più vivida. Allora, quello lì era la prima era del lago di Carezza, no? Questa qui invece rappresenta una zona limitrofa dove si può fare un'escursione, è il Blette Bar, non so se lo conoscessi, per vedere 50 milioni di rocce che si sono formate attraverso la storia della Terra, insomma. E qui ci stanno dei tabelloni, ogni, diciamo, è un percorso di 3 o 4 km attraverso il grede di un torrente, e praticamente ci sono dei tabelloni che spiegano man mano che si va avanti, cominciando da giù e poi si sale, gli strati come si sono sovrapposti, che tassone, che cosa contengono, eccetera, eccetera. È interessantissimo, sono i sentieri geologici, no? Ce n'è pure uno vicino Predazzo e ce ne sono diversi. Adesso è diventata così diffusa la cosa che anche nel meridione, vicino Roma, abbiamo un bel sentiero geologico creato da Mario Tozzi, non so se l'ho seguito qualche volta per televisione. Sì, sì. Ecco. Questo è il grande del torrente, questo sarebbe i depositi attuali del quaternario, questi che si vedono a terra. Sono praticamente l'accumulo di quello che si erode dalle pareti. Questo qui invece è il catenaccio, prima è il Rilatemar. Questo è il catenaccio che si riflette all'interno della... La vita un po' sfocata, com'è? Un po' sfocata? Le stringere anche un po', non so. Sì. Allora, qui, per esempio, che attualmente, se ci siete stati al lago, hanno fatto un palco da cui si ammira il lago. Però hanno, diciamo, in alcune cose, non seguono della... la scientificità, diciamo, delle cose che fanno. Nel senso che, mentre una volta, girando attorno al lago, si riusciva veramente a vedere le immagini di questi monti. Questo qui è di 10 km di larghezza, 10-12 km di catenaccio, e quell'altro è 4-5 km di Latemar. E si riflettono nel lago, si vede l'immagine nitida nel lago. Però, per la legge della riflessione, no? Dove l'angolo di incidenza deve essere uguale all'angolo di riflessione, e a un certo punto da quel palco non c'è più, non ci sono gli stessi angoli, quindi non si vede più. Questa per esempio è una cosa che non hanno creato per bene, perché avrebbero dovuto farlo ad un livello più basso, in modo che i due angoli del raggio incidente e del raggio riflesso dovevano essere uguali. Invece capita, diciamo, l'angolo da dove sta il palco è un angolo più grande e quindi sfugge l'immagine. Questa qui è la famosa Erosadila, non so come si pronuncia da voi. Ci sono tre immagini che riguardano queste cose. Questa è presa dall'alto di Bolzano, cioè una passeggiata in alto, dove se capita una serata con il sole che tramonta, eccetera, si può vedere come prima, cioè agli inizi, poi mano a mano diciamo il colore va trascolora, diciamo, e viene verso il rosso. Poi infatti ce n'è una seconda, ma di musica non si sente più niente, com'è? Un po' di sottofondo, tanto perché dopo mi devono dare l'idea se è stata buona. Sì, ecco perché si sente ancora. Perché ci ho messo dei motivi, diciamo, classici, anche moderni, quindi bisogna vedere se è una cosa confacente. Questo è l'andante di Mozart. Allora, questa è la cosa da dire, che poi tra l'altro ho inserito una poesia nel testo di un autore del posto che ha descritto questa meraviglia qui. Si chiama Von Balak. Sì. Perché non ho riportato il nome, se ci deve essere. Comunque, Von Balak. Quindi questa è tradotta in italiano, forse in tedesco, di solito insomma dovrebbe rendere ancora meglio la... Questo poi ve lo leggete voi, noi dobbiamo adesso il tempo. Ecco, e questo qui adesso è il catenaccio, vedete Rosengarten, vedete adesso, però è molto sfocato per me. Potrebbe restringersi di più, comunque, fa niente. Anche questo si riflette interamente nel lago. Una volta, quando appunto vi dicevo, facendo il giro attorno al lago, si deve individuare l'immagine, insomma, perché se non c'è quella riflessione, come vi ho detto, la legge fisica, insomma, non si riesce a vedere. In un piccolo specchio d'acqua si riflette tutta questa grandezza di 10 più chilometri. E questa qui invece è una propaggine del Latemar. Anche qui è sul far proprio, perché questi colori sono dovuti al fatto che i raggi del sole nel tramonto devono attraversare uno spessore maggiore dell'aria, no? Perché essendo inclinato il sole, e questo fatto fa in modo che alcuni raggi vengono, diciamo, non riescono a penetrare, e invece penetra l'infrarosso e quindi dà questo colore rosso alle cime. Questo è un minuetto di Beethoven. Comunque è importante pure vedere come si presentano le rocce, che noi dobbiamo dire i due tipi di rocce che abbiamo in questa località, il Latema e anche il Catinaccio, che sono particolari, che sono rocce organogene, cioè dovute o a animali costruttori che hanno elevato le barriere coralline, no? Oppure animali che si sono accumulati all'interno di atolli e si sono stratificati l'uno sull'altro. Ecco, questo è questa è la gavotta di Bach. Vedete la cosa bella qui, no? Si vedono diversi mazzi radici. Questi mazzi radici sono portati dal ghiacciaio, perché dopo parliamo del ghiacciaio per capire come si è formato questo lago. E dovete notare i bacini. Questo è il bacino principale. C'è questo strano mazzo erratico che io ho chiamato testa di donna, quando si vede da un certo lato. E poi si comincia a vedere adesso la divisione che c'è adesso. Se andate lì adesso, vedete due grandi bacini rispetto ad altri che sono piccoli, che stanno in dentro. E c'è quella soglia che permette al più grande di alimentare il più piccolo. Però quando si abbassa il livello, come adesso è abbassato di molto, il livello di questo bacino qui più grande, allora non scorre più acqua qui e questo qui si prosciuga, adesso è quasi asciutto. Questo succede a fine estate, magari perché ormai l'apporto idrico diminuisce con le piogge, con la neve, cioè, e quindi si asciuga. Adesso vediamo la stessa immagine con la neve. E qui ci ho messo un motivo un po' allegro. Che è il contadino allegro di Schumann. Di solito quando c'è la neve, per i piccoli specialmente, porta allegria, no? Quindi ho messo un motivo un po' più allegro. Anche qui la testa di donna, i bacini. Che, diciamo, non si vede molto bene. Però qui ci abbiamo, questo è quello più grande, no? E ci abbiamo, qui non c'era ancora la pedana, quella. Vedete che c'è un altro bacino qui in su, questo è un terzo, poi vi faccio vedere quante ce ne sono. Il libro è stato scritto proprio per questo motivo, capire, perciò il sottotitolo qui del libro è Genesi del lago tra scienza e mistero. Gli antichi, se dovevano rendersi conto del perché, non sapevano, è uno scherzo della natura, si diceva, no? Oppure ricorrevano alle leggende. Però questa situazione qui non è stata mai approfondita, perché di solito si va e il lago è tutto pieno e non si vedono tutte queste particolarità. Perché queste particolarità sono uniche, secondo me, in tutto il mondo non esiste una situazione del genere. Poi ve la spiego. Perché è dovuto allo scontro dei ghiacciai, quello che abbiamo. Notate sempre i massi erratici, perché poi ne parliamo. Vedete, qui c'è il bacino sempre più grande e si vede quell'altro piccolo di là. In tutto non ho messo tutte le foto. In questo bacino grande, che adesso è inondato dall'acqua, se ne contano 7-8 di questi piccoli bacini. Poi, ipoteticamente, quando c'è stato lo scioglimento dei ghiacciai 20.000 anni fa, c'era un apporto idrico molto più grande, probabilmente il lago saliva ancora di più di livello, perché il bordo, cioè il cordone morenico che racchiude il lago, praticamente ne può contenere molto di più, può alzare molto di più il livello, anche se adesso hanno fatto passare la strada con un sottopassaggio della strada e quindi non può andare oltre un certo livello, che poi c'è un emissario, insomma, che fa andare via l'acqua. Questa è moderna, questa musica qui, non so se avete visto il film, L'ultima neve di primavera, è intitolato questo motivo, il motivo conduttore del film L'ultima neve di primavera. Vedete anche con la neve, insomma, il riflesso degli abeti, poi si vede il fondo. Adesso il lago si è riempito di... perché poi il bello di questo lago è che attraverso le stagioni cambia colori, cambia riflessi, perché c'è la maturazione delle alghe che contiene il lago, no? La maturazione fa in modo che da un verde tenero piano piano si scurisce, quindi c'ha verde chiaro, verde scuro, poi blu, eccetera eccetera, per la profondità, cioè. Quindi, questa qui dobbiamo cominciare a notare una cosa particolare. Questa è la tristezza di Chopin, questo motivo, perché vediamo la natura che va in rovina, no? Si staccano qui c'è una zona di frane che hanno dato luogo pure a delle leggende, che anche nel Settecento c'è stata un'ultima frana dove si sente come un terremoto, un rimbombo nella valle, allora la gente allora si spaventava, perché... E questa qui poi attigua, questo già fa parte, del cosiddetto labirinto. E avete sentito parlare del labirinto? Sì. Quindi è un insieme caotico di massi erratici grandi, questi veramente non sono massi erratici, i massi erratici sono quelli che vengono trasportati dal ghiacciaio, invece questi sono massi dovuti alle frane, alla scomposizione delle rocce. E bisogna notare anche che questo tipo di roccia è diverso da quello che vedremo dopo, perché questa qui fa parte degli animali, cioè delle barriere coralline, gli animali costruttori, dove praticamente la differenza si nota, perché non si vede stratificazione, si vedono ammassi senza linee di orizzontale, insomma, che separano uno strato dall'altro. Quindi invece le prossime foto che vedete riguardano invece la parte interna dell'atollo, dove si sono stratificati i vari scheletri di animali che vivevano lì, no? E quindi si vede questa stratificazione. Ma questo dura una ventina di minuti, mezz'ora massimo, poi dovremo parlare delle... Quindi intanto ecco, si può notare queste particolarità, perché questo lago ha delle cose... proprio è personale, cioè noi diciamo ognuno di noi è diverso da un altro, no? Questo è un lago diverso da tutti quelli che esistono sulla Terra. Io ho un po' di esperienza, sono stato pure in Nord America nelle montagne rocciose, ho visto delle cose analoghe, però adesso qui ci troviamo ecco a vedere le due formazioni rocciose sciolte, no? Questa avanti è quella del labirinto, costituita da tutti questi massi che sono venuti dall'altro, e queste più avanti vedremo ancora altre foto, sono invece galie e sabbie, cioè è un modo di scomporsi delle rocce stratificate, perché in effetti quando c'è la stratificazione non c'è una grande adesione tra uno strato e quello di sopra, cioè. Quindi le rocce sono più friabili, infatti in questa montagna qui non possono scalare le cime, perché i chiodi può crollare tutto, quindi non è tanto facile salire su questi cibi. Questa è l'aria sulla quarta corda, il Bach. E adesso potete notare il fondo del lago di sopra. Qui ci sono tre laghi. In Canada, vi dicevo prima, ho notato questo fatto. Ci sono tre laghi a diverse altezze. Questo è il primo lago, quello superiore, che si chiama appunto lago di sopra, che però non è più un lago, nel senso che è stato riempito da tutte queste rocce che sono crollate, e poi praticamente l'argine non esiste più, perché si è colmato. Il colmamento dei laghi di montagna avviene in tutte le parti del mondo, avviene sia per i crolli appunto di queste rocce, sia perché nei laghi crescono gli sfagli, vengono chiamati, cioè ci sono delle erbe palustri che crescono proprio nell'acqua e di anno in anno muoiono quelle dell'anno precedente e ci ricrescono le altre su, finché piano piano si colma e questa massa di vegetali in putrefazione c'è, quindi chiamata poi la torba, no? La torba che se passano molti anni può diventare lichita, poi andrecita, eccetera, eccetera. Quindi qui noi vediamo qui di nuovo un primo piano del labirinto. Anche qui se non si segue il percorso indicato, uno si perde in mezzo a quella. L'ho voluto fare apposta di nuovo nei giorni scorsi, prendendola da sotto, perché poi ci sono due morti, o scendere da sopra oppure passare da sotto. Effettivamente mi sono trovato poi certe volte a fare dei gradini così, quindi bisogna per forza seguire, poi ci sono delle porte attraverso cui si passa, insomma. Vedete allora la differenza adesso qui tra questa roccia che si è composta in grandi massi, no? E quell'altra invece che si è sgranellata tutto. Quelle sono ghiaie e sabbie, quelle lì si chiamano detriti di deiezione, cioè quelle che tira giù la montagna. C'è da notare anche l'inclinazione, perché l'inclinazione poi sarà una cosa particolare che andremo a spiegare dopo. Per quanto riguarda il ghiacciaio che è stato su questo posto. Questi sono i ghiaioni, all'epoca appassionato di Mendelssohn. Vedete come si inerpicano questi ghiaioni? C'è una differenza tra quei massi di prima, dipendenza, no? È questo qui, che proprio salgono. E questo fatto qui crea un altro fenomeno, che mica è tanto facile trovarlo in Cina nelle dolomiti pure, che sono i rock glacier, cioè i fiumi di roccia. Che succede? Che quando l'inverno si copre con la neve e questa neve penetra dentro, acqua, si ghiaccia, no? Quando arriva la primavera e si scioglie, l'acqua fa perdere la coesione a questi sassi, a queste ghiaie, e vengono giù proprio tutti insieme, vengono giù. Adesso nella prossima figura vediamo proprio questo, i rock glacier si chiamano, fiumi di roccia. Veramente questo non è proprio un fiume, è un piccolo rivolo, però se andate lì a fare una escursione ne vedete uno straordinario, per larghezza, per ampiezza. Questo poi quando vengono giù rovinano i primi alberi che stanno. Questa è la funzione poi degli alberi, no? Che riescono a fermare queste cadute. Sì. Questa qui invece gli ho dato un po' più di vivacità al pezzo, perché fa vedere, è dinamica la cosa, no? La caduta di queste rocce. Questo è un pezzo addirittura, diciamo, jazz, il Dixieland, che esisteva, che si era in voga negli anni 20, no? In America. Questi adesso poi sono i massi erratici veri, questi sono stati portati qui dal ghiacciaio, noi ne dobbiamo parlare, perché il ghiacciaio qui ha fatto un'opera, diciamo, grandiosa, ed è ha delle particolarità che non si sono verificate da nessuna parte, perciò è successo che il lago si è composto in tanti piccoli bacini. Lo spiegheremo dopo. Questa è una musica un po' nostalgica, appassionata, insomma, dolorosa, per far capire come la natura, come anche la natura muore, anche la natura si rovina. Quindi come vogliamo noi pensare che siamo degli esseri molto più fragili di Madre Terra? Quindi questo è il concerto di Aranguez, che è spagnolo. Qui, comunque guardate quello lì quanto è grande, questi due. Di queste cose, questi massi erratici, ne troviamo a centinaia, scendendo giù, scendendo verso Nuova Levante. è un'altra particolarità del posto. Voi vedete delle volte su una pianta che cresce proprio su uno di questi massi, come riesce a stare lì, è un altro miracolo della natura. Qui adesso ci troviamo sopra, sulla vetta, dietro tutta la parete dell'Atemano, no? Che si vede dal lato di Venezia. E c'è un altro fenomeno unico. Quando dico unico, può darsi che qualcuno dice, ma è possibile? Cioè, questa roccia, questo Latimar, è una delle montagne più tormentate del mondo. Cioè, si è sconvolto in tre pezzi attraverso la storia geologica. Poi, siccome di calcare, perché qui ci sono delle montagne che sono proprio calcaree, e altre che sono dolomitiche. Questa è calcarea, quindi è stata, diciamo, erosa dalle acque che scorrono all'interno. Quindi si presentano diversi vuoti. E uno di questi è stato riempito addirittura da una effusione lavica che si è introdotta da sotto ed è arrivato quasi su alla cima qui. Immaginatevi che questo qui c'ha è rotondo e ha un diametro di 60 metri, cioè un corpo diciamo magmatico che ha una dimensione enorme. Insieme a questo, poi, quando si fanno le passeggiate lì, si trovano tante volte dei roccioni lunghi che sono inframmezzati con la lava. Quindi questo monte è stato proprio iniettato di magma. Ed è una cosa da particolarità, perché c'è stato un grande vulcano, quello di Predazza, era alto 3.000 metri, che proprio ha permeato tutti i vuoti che si... E noi non li sappiamo neppure, perché per esempio ci dovrebbero essere delle grotte, dei camminamenti sarcastici, ma qui non si riesce perché sono tutti chiusi, non si riesce a capire. Ora ho messo quest'altra foto qui per farvi vedere la differenza. Questa praticamente è dove dalla parte del lago vediamo queste rocce a strapiombo, no? Pinnacoli, eccetera. E dalla parte invece sud, la roccia vedete come si è erosa, non in quelle forme verticali, in una forma un po' diciamo con una pendenza. Poi la bellezza pure è qui, che a seconda della luce del sole, del giorno come si presenta, sono altri, con altri colori, proprio c'è un cambiamento di colori. Io infatti l'ho descritto sul libro, ho detto che in pratica è come se queste rocce rivivessero, illuminate dal sole, rivivessero perché sono costituite da scheletri di pesci, ma anche da conchiglie. La conchiglia all'interno presenta sempre la madreperla, no? E quindi noi, come se si risvegliasse questa madreperla dei microorganismi di cui è fatta la roccia. E quindi c'è un'evoluzione dei colori, anche durante una giornata, che è una cosa straordinaria. Adesso noi passiamo con questa immagine qui al lago di mezzo. Sta per finire. Questo è un motivo proprio dell'Alto Adige, parecchio a qualche signore mi ha consigliato di mettere più motivi dell'Alto Adige, io però non ce ne ho tanti, però non sono se particolari di quel posto, forse saranno ladini eccetera, quindi non riesco a scegliere questa situazione. Questo è lo Snellwanzer. Il lago di mezzo, poi ve lo spiegherò molto meglio prima, dopo, come si è formato questo lago di mezzo, quindi i tre laghi, no? Questo qui è come, si presenta come quello di sopra, il lago di sopra, cioè ormai colmo. Ci sono state adesso a luglio e c'era 50-60 cm di acqua, però non copriva tutta questa superficie. Cioè a primavera quando si scioglie la neve, se c'è stata parecchia neve, allora si colma. Se no presenta solo delle chiazze così di acqua. Anche questo quindi è in via di colmamento, cioè tra gli spagni e tra la porta delle rocce eccetera eccetera, stava sparendo. Questo sta a 250 metri dal lago di Carezza ed è importante adesso questa distanza perché vi devo spiegare che cosa succede, è successo. Questo si presenta, ho messo quest'altra foto, questa manca a farla apposta, è una foto della zona dove c'è stato il terremoto adesso, lago Vettore sui Monti Sibillini. Questo lago si chiama Lago di Pilato, c'è anche lì una leggenda, insomma, che Pilato è andato a morire su questo lago. però l'ho messo per far vedere che la meccanica glaciale, quelle che fanno i ghiacciai, è uguale dappertutto. Quindi anche negli Appennini che ci sono stati ghiacciati, hanno formato questo tipo di laghe che si presenta con più bacini. Adesso vediamo quanto appare, ecco. Questa è la legge di Mozart. Ecco, cominciamo a vedere qui. Quello è un bacino, poi ce n'è uno piccolo qui. Man mano che sale l'immagine ce n'è un altro più grande qui. E quindi, come vedete, anche qui si è creata una situazione particolare, che questo ghiacciaio si è diviso in più blocchi che hanno scavato, insomma, questi vari bacini di un unico lago, il lago di Pilato. Adesso anche questa è una magra estiva, perché poi quando d'inverno si riempie d'acqua, quindi si vede tutto uniforme, tutto un solo bacino. Quindi l'ho messo questo, l'ho messo come prova, dimostrazione, perché quando nella scienza si fa un'ipotesi e si vuole avvalorarla, si può avvalorare dicendo che è scienza veramente, perché si può fare la sperimentazione in laboratorio. Se si riesce a riprodurre in laboratorio, allora si dice è veramente così. Quindi io ho fatto un'ipotesi, ma non so se è vera. Però per renderla, diciamo, scientifica, ho portato degli esempi della natura. Quindi non ho potuto fare sperimentazione, che è difficilissima. Io posso anche suggerire come si fa per vedere se quel che dico io è giusto. Però non si può fare, non si può eseguire in laboratorio, bisogna ricorrere sempre alla natura per capire. E questa è l'ultima che fa vedere l'inizio del turismo in questa zona, è dovuto a questo grande edificio che ha creato questo Mannos, che ne ha fatto tanti altri. Quello era un promotore, un ingegnere, una cosa straordinaria, che ha implementato in tutto l'Alto Adige, no? Tutto il Tirolo, il turismo, creando tante di questi trafoglie, insomma ce ne sono 5 o 6 in Cipro, il Grand Hotel Carezza, no? E qui poi si sa, c'è il fatto storico, c'è stata una pagina dedicata a questo qui, che c'è stato Sissi per circa un mese, poi c'è stato l'imperatore che è venuto a fare il compleanno qui dalla moglie, e poi ci sono stati personaggi da cui Churchill, Agatha Christie, che è un personaggio importante, poi se c'è tempo ne va. Ecco qui, adesso possiamo anche spegnere e accendere le luci. Sì, possiamo spegnere qui e accendere. La come? Anche la musica? No, la possiamo dire. Allora, la prima cosa che dovevo dirvi è che ha accennato già la dottoressa, che io frequento da più di 30 anni, ho una multiproprietà. Quindi vengo prima per i 14 giorni, poi vengo per un mese, penso due periodi. E quindi, siccome il geologo c'è una certa deformazione professionale, no? Quando vai in giro si vuol rendere conto, ma questo perché è successo, questo perché c'è così, questo perché è così, no? Cerca di spiegarsi i fatti naturali, come sono avvenuti. E quindi, adesso mi sembra una cosa romanzata quello che vi vado a dire adesso. Io nel fare un percorso del Belt and Block, dove avete visto che si deve fare questo percorso in questa forra, insomma, inverno dantesco lo chiamate, si scende con le scale e si deve salire con le scale, perché le pareti sono così limiti che non si può scendere così, ci vogliono le corde, cioè bisogna essere alpinisti. Quando sono arrivato alla fine di questo percorso e sono salito su, poi comincia una specie di sentiero dove hanno inserito anche dei tabelloni per spiegare la botanica e la zoologia, cioè la flora e la fauna dei posti. Però il primo cartellone che si trova, l'hanno scritto, non so chi ci ha pensato, una poesia che parla dell'acqua del poeta Goethe. Quindi se adesso vi dico che io, ispirazione a creare questa spiegazione dell'articolazione del lago, me l'ha suggerito Goethe, che è vissuto 200 anni fa, 350 anni fa. E infatti in questa poesia, non ve la leggo perché sennò perdiamo molto tempo, ci stanno due volte che lui dice parla dell'acqua, che l'acqua parla all'uomo. Dice, voi non siete fatti per dire di acqua, perché non mi conoscete, eccetera. Dice a un certo punto, il mio segreto è la forma del movimento. Dal mulinello, dal gorgo, traggo la mia energia. Poi, come se non bastasse, se di tanto, voi vedete invece una via dritta da terra, provate ad usare la spirale ed i corpi per la spiegazione della natura, come è fatta la natura. Queste due cose, visto che io rimuginavo sempre, state accendendo di questo lato, ma perché è così, perché è così, mi ha dato l'idea di come spiegare quel fatto. E allora adesso, per potervi, prima di andare avanti, vi voglio dire una cosa, che l'Italia, forse voi di più, siete più, diciamo, addentro alle cose, perché state proprio in mezzo alle mie, ma di solito l'Italia, anche se ce l'ha per mio, l'italiano è un popolo ignorante di scienze della terra. Perciò vanno a fare le case nelle zone terremotate, sulle sulle, nei fiumi, sulle frane, eccetera, eccetera. Se sapessero un tantino di scienze della terra, si potrebbe evitare tutto questo spreco che sta avvenendo. C'era una commissione già nel 70 che aveva previsto come rimediare a tutti questi problemi, però non si è fatto niente. Cioè la politica pensa solo a spendere i soldi, non a prevenire. Bravo. Questa bravo. È una cosa bravo. Che devo dire, perché bravo. Poi la divulgazione scientifica dei geologi, specialmente voi li vedete per televisione, Angela, Mario Dozzi, poi ho visto pure alcune notti fa Avanzini del Museo di Trento, no? Che hanno fatto una trasmissione, poi ha scritto pure un bel libro, perché c'è stato un convegno a Sapienza di Roma dove hanno parlato dei cartografi e dei geologi nella prima guerra mondiale, che la prima guerra mondiale è stata un po' voluta anche da un grande geologo, perché diceva il confine dell'Italia naturale è quello di oltre le Dolomiti, cioè quello che poi si è conquistato con la prima guerra mondiale. È brutto, però purtroppo a quei tempi la pensavano così. Adesso si rimedia col fatto, basta avere autonomia, ognuno ha la sua autonomia, è tutto messo a posto, no? C'è bisogno di stare a fare le guerre. Allora, vi dicevo, la divulgazione scientifica di questi grandi geologi, colleghi, che insomma hanno possibilità di accedere a questo mezzo della televisione, eccetera, riguarda il macrocosmo. Questa è un'altra particolarità. Cioè le cose grandi, le ricerche petrolifere, i ponti sullo stretto, eccetera, tutti questi problemi delle strade, problemi dei palazzi, degli edifici. Però il microcosmo è quello dove ognuno di noi vive, non si sa niente del microcosmo. Allora io esorto i miei colleghi, con questo libro ho dato inizio, però se ne sto scrivendo un altro proprio per questo motivo, esorto i miei colleghi dove vivo, no? A scrivere qualche cosa sulla geologia del posto, così ognuno più o meno può sapere se va incontro a pericoli, se va bene, se non va bene, no? Non è una cosa giusta. Quindi questo si chiama microcosmo. Cioè, qui porto l'esempio della macchina fotografica, che dallo zoom, dal grande obiettivo, passa con lo zoom, passa alle particolarità. Quindi questa è un'altra cosa che bisogna diffondere. Quindi noi qui prendiamo in esame un oggetto di microcosmo, un piccolo lago con quella montagna nostra. Allora, come lo prendiamo in esame? Io a un certo punto dice la bellezza, c'è talmente bellezza che ci vorrebbe un poeta, come si deve, per descrivere queste cose, come ci vuole un grande pittore per poterlo riprodurre, eccetera, eccetera. Allora io, non potendolo fare come poeta, anche se mi sono cimentato, poi ho scritto una poesia anche relativa al lago, e allora per poterlo descrivere io ho pensato di descriverlo scientificamente, perché ogni persona, se conosce bene il posto dove va a fare il turista o dove vive, sa apprezzare anche di più quello che c'è di bello, perché la natura è sempre bella, inutile, anche se andiamo nei posti peggiori c'è la sua particolarità, la sua bellezza. Basta solo saperla apprezzare, conoscerla, perché con la conoscenza si riesce anche ad apprezzare. Quando conosciamo le persone, no? Se non le conosciamo bene, riusciamo ad apprezzarle. La stessa cosa per la natura, perché poi la natura, qui si scrivono romanzi, anche si riempiono biblioteche intere di romanzi, no? Che riguardano l'uomo, ma della natura, che è la più grande storia che esiste, che è di 4 miliardi e mezzo d'anni, come mai nessuno ne parla, nessuno se ne fa attenzione a questa cosa? Questa è la storia delle storie, la chiamo io, no? Adesso potremmo cominciare a vedere che cosa è successo lì per la formazione di questo lago. Allora, io parlo di un fatto che mi riferisco al grande Einstein, anche se diciamo di pizzico rispetto a lui, no? Il quale aveva inventato il cosiddetto esperimento mentale. Cioè, che significava? Che lui, già mentalmente, riusciva a capire come dovevano essere le cose. Perché tante cose in fisica non si possono neanche sperimentare. E infatti per sperimentare dovuto fare il tunnel sotto il Gran Sasso, no? Oppure quell'altro grande... Il CERN di Ginevra, eccetera, eccetera. Quindi, in pratica, noi con l'esperimento mentale possiamo già anticipare quello che può, possiamo già capire. Poi bisognerà sperimentare per vedere. Allora, quindi, l'esperimento mentale che vi suggerisco di fare, che cos'è? Immaginate in questa montagna 1000-1500 metri di ghiaccio che sovrasta le cime e la valle. Questa è una valle di 3,5 km, non è una grande valle, 3,5 km. Immaginate che ci stanno 1000 metri di ghiaccio, 1500 metri, come esistevano su tutte le Alpi, no? E vediamo che cosa fa questo ghiaccio. Certamente lui è sottoposto alla forza di gravità, quindi deve scendere, se c'è una pendenza deve scendere. Allora partiamo da quella che sta sopra a 3000 metri circa, che trasborda, perché sul lato valle c'è stata una grande valle, la Stei di Valsorda, la Valsorda, la Stei di Valsorda. Quindi là già c'era un bel mucchio di ghiaccio. Poi questo ghiaccio scendeva giù, dove ci sono quelle pareti, no, che noi vediamo. Che cosa compiva? La prima cosa che faceva, che cos'è? Che frantumava quel bordo di pareti, per cui noi adesso, quelle pareti che vediamo adesso, 10.000 anni fa, quando c'era ancora, stava finendo la glaciazione, non si vedevano, perché erano nascoste da altre pareti che sono state portate giù dal ghiacciaio. E le vediamo proprio sparse, sia nella valle qui del lago di Carenza, e sia nella valle andando giù verso noi. Se vi fate una passeggiata nella strada, passando, vedete tutti i massi rapici di qua, della paghera, un mucchio enorme. Quindi, allora, stiamo immaginando che esiste questo ghiaccio che adesso si muove. Nel venire giù, perché c'è una pendenza dai 3.000 metri di quelle cime, dai 1.200 dove stanno i ghiaioni che abbiamo visto, no? Si deve scendere a 1.650 metri, e 1.550 metri dove c'è il lago. All'inizio questa pendenza è molto accentuata, poi quando si arriva al lago di mezzo diventa quasi orizzontale, sono 20-30 gradi, mentre prima ci stavano 40-50 gradi. Allora questo ghiaccio è costretto a scendere, trasporta tutto quello che trova sotto, ai lati, eccetera, e viene giù. Arriva in una specie di grande valle, io l'ho chiamato trugolo, cioè c'è una forma circolare, 500 metri di larghezza, per 300-400, cioè ci sono delle pareti di qua di là, in alto, no? Quando è arrivato dopo 1,5 km circa, che succede? C'è un altro ghiacciaio, un'altra lingua ghiacciaio, che viene dal lago di sopra. Mentre il nostro ghiacciaio viene da sud, viene verso nord, invece questo lago di sopra ha una direzione est-ovest, quindi, e siccome c'è una pendenza anche lì, porta del ghiaccio a scontrarsi con quest'altro lingua glaciale. Avviene uno scontro. Cosa può succedere quando si scontrano queste masse enormi? È una cosa straordinaria, no? Si frantumano, si rompono. Allora perdono la loro forza e succede che attraverso la valle, andando ancora avanti, si forma una specie di piccola dorsale. Ci sono le pareti laterali e poi c'è una dorsale al centro. Perché avendo perso la forza di propulsione, perché cioè, è venuto questo scontro, deposito tutto quello che contiene nell'interno. Nell'interno quindi contiene massi erratici, sassi di tutte le dimensioni, e si forma questa dorsale. Quando arriva al lago di mezzo, praticamente si vede che si sono formate due lingue glaciali, perché questo lago è a forma di occhio, come ho fatto vedere quell'immagine, non si distingue più perché si è colmato, però se uno vede bene come sono... come è contornato da questi massi erratici, si capisce che c'erano due lingue glaciali, perché c'era questa dorsale al centro che ha spaccato quest'unica massa che veniva giù. Da questo punto in poi, al lago di mezzo, avviene il fatto che cambia la pendenza, si rallenta, perché quindi la velocità diminuisce, perché la pendenza è minore. Che cosa succede? C'è un altro fatto adesso che succede, che la valle da 500 metri si va restringendo, arriva a una larghezza di circa 300 metri. Allora questo ghiaccio che viene giù e che è contornato da queste pareti, che cosa deve fare? Si comincia a frantumare, a concentrare, si formano in altri posti, si chiamano serracchi, cioè quando anche nell'attuale, qui nella valle dell'Adige, c'era tutto un ghiacciaio che scendeva giù verso la via Nurbadana, no? E ci stanno, spesso ci stanno dei pezzi di rocce, monti che si frappongono rispetto al percorso. Allora quando arriva lì, il ghiaccio che cosa fa? Si scompone e si formano tante il serracchio, appunto, è costruito da tanti prismi di ghiaccio che magari poi salgono su, anche per poter superare quell'ostacolo che c'è. E quindi vedete che si va a formare questa scomposizione. Noi adesso su questo dobbiamo puntare l'attenzione, facendo sempre, insomma, immaginando un esperimento mentale, diciamo, che quando è arrivato al lago di Carezza, al punto dove c'è il lago, c'è stata un'altra grande cosa, ma proprio enorme, perché dal Catinaccio, che è largo ben 10, 12, 13 chilometri, scendeva una massa glaciale, la stessa cosa, 1000 metri, 1500 metri, scendeva verso la valle dell'Adige, la valle dell'Isarco, no, contro il Renonno. Quindi questa massa di ghiaccio enorme scendeva e andava a sbattere contro il Renonno e poi prendeva la via per la valle dell'Adige. E allora cosa è potuto succedere quando il nostro ghiacciaio è arrivato in quel punto e si è scontrato con quella grande massa? Allora lui è venuto una disarticolazione di questo ghiaccio dell'Ademar, e che siccome non poteva andare avanti più, ma doveva prendere la via nord-sud, anche est-ovest, anche in quel caso, est-ovest, quindi da, nord, da sud a nord, poi doveva andare est-ovest, allora questo scontro ha fatto in modo che si scomponesse in tanti pezzi questo ghiaccio. Però che cosa hanno combinato questi pezzi? Siccome venivano pressati da sopra, dall'altro ghiaccio che arrivava, allora si è creata come una specie di rotazione di questi cilindri, che li chiamo cilindri, che hanno forma di cono sotto, per i due bacini che sono proprio a forma di cono rovesciata, no? Lì allora ci stavano questi due grandi cilindri che ruotavano, ma insieme a lui, insieme a questi, a fianco di qua e di là, ce n'erano altri. Quindi che sono stati sottoposti a fare qualche piccola rotazione, non è che poi devi smettere a girare. Io parlavo nel tempo dell'orologio come ingranaggio, insomma, fa vedere l'ingranaggio, no? Che una rotella riesce a mettere in moto le altre. Quindi allora è successo che questi vari pezzi, questi vari cilindri, hanno scavato i vari. E io ve ne ho accennato a 6, 7 sull'acqua che adesso vediamo adesso. Ma se andiamo a fare un giro, il periplo del lago, all'interno della foresta lì, se ne vedono altri. Io ho contato circa 12-13 di questi pezzi di ghiaccio che si sono messi a ruotare prima di essere portati giù. E quindi ecco la spiegazione del bacino del lago, che è un bacino composito di tanti piccoli bacini. Oltre a questo, scusi, posso interrompere? Sì, sì. Io forse ho visto il lago di Carezza prima di lei, molto prima di lei. Sì. In quegli anni io non mi ricordo mai, l'ho visto centinaia di volte, ci abitavo lì, non ho visto mai il lago a pezzi, era sempre un unico lago, sempre. Per anni, poi hanno incominciato, tutto l'anno, anche ad agosto, anche ad agosto, non è neanche ad agosto che si vedeva, forse lei sta parlando di migliaia di anni fa, non so. No, di adesso. Adesso lo è di nuovo, ma adesso ci dicono che è perché rum. vanno, fra virgolette, tanta acqua per fare la neve artificiale. Sì, per fare le piste da neve quando non ce n'è, quest'anno ce n'era poca, dove vanno a prendere l'acqua? Ma i laghi tanti però non li ho mai visti per decenni. Il bacino lì è ben individuato, non possono andare a prendere le buche ci sono, ma non possono andare a prendere lì l'acqua. Lei si ricorda il lago che arrivava al bordo della strada? Certo, ma quella cioè in epoca storica, cioè 8, 9 mila, 10 mila anni fa, lì era molto più alto. Sì. Solo che adesso c'è quell'emissario, se riesce a salire su. Però voi sapete, poi insomma, conoscete il fatto che stiamo in un'epoca di cambiamento climatico? Certo, adesso è più lo vediamo quello, Sono stata a Carezza anche faccia 10 giorni fa e ho visto, ma che peccato, era più bello. Certo. Allora, continuando, perché questa è già una particolarità, vi ho detto, è unica. Ce n'è un'altra che si riferisce al cordone morenico, non so se sapete che cos'è la morena. Allora, un'altra immaginazione, il lago di Garda, penso che lo conoscete tutti, no? Sì. Allora, vedete, come è fatto il lago di Garda? C'era un ghiacciaio, una lingua glaciale che passava in mezzo alle montagne, di circa 100 chilometri, già il lago è quasi 50 chilometri, no? Quindi, allora, questa lingua scendeva giù, siccome passava dai 3.000 metri, anche lì, con le montagne che stanno arrivando a Merlo, scendeva sulla pianura padana, c'era un cambiamento climatico apposta, cioè a un certo punto la temperatura scioglieva questa lingua glaciale ed era costretta a depositare quello che, perché quando si scioglie tutto quello che c'è dentro, sabbia, terra, eccetera, eccetera, la deposita. Allora si forma una specie di barriera, di diga, no? Si chiama cordone morenico quello, ed ha sempre una forma arcuata così alla fine della valle. Dentro poi si accumula l'acqua, piano piano si forma il lago. Quello si chiama morena, cordone morenico, come lo vogliamo chiamare. Se andiamo a esaminare il nostro, c'è una particolarità anche questo qui. Quello lì del lago di Garda, anche del lago Maggiore, di qualsiasi lago, ha una superficie orizzontale. Quindi se vediamo il dorso di questa morena, è orizzontale. Invece nel caso nostro, siccome c'è stato lo scontro con i ghiacciai che veniva dal Catinaccio, allora questa non si è potuto mantenere allo stato orizzontale, si è cominciato a inclinare. Adesso noi non lo vediamo bene, il cordone morenico, però se andate dalla parte di sopra, se ne vedono due, uno a fianco all'altro, a pochi metri di distanza, perché dipende dagli stati glaciali, gli stati sarebbero i momenti in cui il ghiaccio si comincia a sciogliere, e si forma quindi l'accumulo di questi. Ora, quando è arrivato lì, per questo scontro che si è avuto, il livello non è stato uguale dall'alto al basso, è andato. Adesso non si rinota più, perché quando, questa è un'altra cosa sbagliata, però non ci si batte, cioè quando si tratta di opere umane, allora è l'uomo che comanda, non si fa comandare la natura. Perché se c'era un geologo sensibile come poteva essere io, gli avrei detto, invece di passare dentro la morena, quindi dentro sul lago, diciamo, si poteva passare all'esterno. Invece qui hanno rotto un primo punto, cioè per entrare dove c'è il lago, no? Hanno rotto un po' l'argine, quindi l'hanno abbassata, quindi non c'è più il raccolto. Poi l'hanno rotto di nuovo al centro per fare tutto quel grande parcheggio che c'è. Poi, quando sono andati avanti, hanno dovuto fare quella ansa, no, quella specie di tornante, e l'hanno rotto proprio sopra questo cordone. Quindi bisogna solo immaginarlo quando si va lì, se uno capisce come è fatto, perché non c'è più, è scomposto. E questa è un'altra particolarità invece che poteva rimanere come esempio di come agiscono i ghiacciai a seconda di loro. Perché il ghiaccio, questa è un'altra cosa che dico lì, cioè la natura reagisce alle variazioni che può portare o la natura stessa o noi uomini, ripristinando, ci vuole un po' più di tempo per la natura, ripristinando le sue condizioni iniziali. Quindi la natura vince tutto. Noi, le nostre cose, passano 100 anni, 200 anni, scompariranno tutte le sensazioni, eccetera, eccetera. rimarranno solo quelle fatte come all'epoca romana, con grandi sassi, eccetera. Potranno vivere, non so, 2000 anni, 3000 anni, ma tutto scompare. Nella natura viene portato via tutto. Adesso però, per parlare un po' di geologia, perché non vi ho detto, sì, ve l'ho accennato, cioè noi abbiamo la nostra storia di questi monti, non è molto antica, è abbastanza recente, cioè risale al massimo a 300 milioni di anni fa. In quella da 275 a 270, qui c'è stata nella zona qui di Bolzano, tutto attorno, per un diametro di circa 80-90 km, c'è stata l'emissione di lave, quindi vulcani tutto attorno che hanno eruttato e hanno riempito un grande bacino di 70-80 km. Questo si chiama piastrone porfirico adesivo, cioè i porfidi, in superficie sono porfidi, sotto sono altri tipi di rocce, sempre vulcani. Allora quindi da quel momento lì si sono andate su questo piastrone, dalla parte qui di Bolzano, ma dalla parte, ad esempio, di Vico di Fasso o dalla parte di Predazzo, il basamento non è questo. Questa montagna c'ha questa particolarità. C'è una scrittrice che ha fatto un libro in tre lingue, no? E ha fatto presente che lì ci troviamo di fronte a un gruppo montuoso che rappresenta, diciamo, il punto di coordinamento di tre etnie diverse: i ladini, gli altoatesini e gli italiani. Adesso io ho notato che anche dal punto di vista geologico il basamento su cui sorgono queste montagne che sono appunto formate da organismi, no? È fatto di tre tipi di rocce diverse. C'è questo qui, il piastrone porfirico, dalla parte di Nova Levante. Poi dalla parte di Vigo, invece, c'è un basamento che è dovuto all'accumulo di sedimenti che sono più antichi ancora. E poi dalla parte di Predazzo abbiamo le rocce vulcaniche, che però si sono sviluppate dopo 50-60 milioni di anni. Quindi allora noi abbiamo, poi la nostra montagna praticamente si è formata in 4-5 milioni di anni. È stata veloce perché la crescita dei coralli avviene velocemente e così l'accumulo degli animali, perché poi c'era un periodo di clima tropicale per cui la vita era molto intensa, molto attiva, quindi alghe, pesci, crostacei eccetera si sono accumulati in 4-5 milioni di anni, hanno fatto una parete di 700-800 mila metri, questo dovunque lì, pure per quanto riguarda il Catinaccio, lo Scilia eccetera eccetera. Quindi questa è l'epoca di formazione. Poi questa qui è la prima parte, in geologia si studia prima, cioè praticamente la vita della Terra si comporta analogamente dappertutto. C'è questo periodo qui della formazione delle rocce, no? Poi abbiamo un secondo periodo in cui queste rocce vengono sopraelevate, perché c'è stata la teoria delle placche, cioè continenti che si scontrano con altri continenti, l'Africa viene contro di noi, contro l'Europa. Allora si arricciano questi depositi che si sono formati nel mare e vengono fuori tutti questi monti. Poi a un certo punto, 20 milioni di anni fa, questo succedeva nel mare. 20 milioni di anni fa le nostre Alpi sono cominciate ad uscire fuori dall'acqua. Allora si arriva a un terzo stadio in cui comincia a prevalere la demolizione di queste rocce, perché l'atmosfera, con i suoi ritmi climatici, eccetera, eccetera, piano piano le scompone e butta giù tutto. Quindi ci sono tre modi di formarsi dalla Terra. Prima la petrogenesi, cioè la formazione delle rocce, poi la dinamica che porta su, come mai le sfuggono dei nomi. Questa è un'altra, la richiamo. Dunque, noi distinguiamo l'orogenesi. Questo che diceva adesso c'è prima, però la litogenesi, formazione delle rocce, orogenesi, formazione delle montagne, e poi infine morfogenesi, che è invece quella che è avvenuta negli ultimi anni, specialmente per opere dei ghiacciai, perché il ghiacciaio è, a parte più che nell'acqua, l'acqua corrente, l'acqua liquida, è più che l'acqua allo stato di vapore, c'è una forza enorme per modificare la superficie terrestre. Quindi c'è il glacialismo che si unisce alla morfogenesi, cioè le forme vengono determinate da questo lavorio dei ghiacciai, che si sono avute poi negli ultimi 2 milioni di anni più o meno. Perché queste glaciazioni, attraverso la storia della Terra, che vi dicevo, 4,5 miliardi di anni, si sono avute più di una volta, con la scomparsa degli esseri viventi, no? Si è avuta più di una volta. E quindi la storia della Terra è fatta così. Queste tre fasi di formazione, di elevazione e poi di scomposizione. Cioè. Non so che altro vi posso dire. Quindi in effetti il mio libro, la lettura, ecco questo lo devo, la lettura di un libro scientifico è sempre difficoltoso, no? Perché bisogna leggerlo piano piano, attentamente, rileggerlo magari. Perciò noi non siamo abituati, ci divertiamo a leggere i romanzetti e cose così. Invece è necessario, perché al giorno d'oggi, se voi vi girate attorno, questo, qualsiasi cosa vedete, da che cosa è creato? La scienza, no, il computer, la macchina, questo, quell'altro, è la scienza. Perché non diamo importanza alla scienza come diamo importanza a tutte queste altre cose? L'arte va bene, la musica va bene, la letteratura va bene, ma io dico almeno il 30, il 20, il 30% vogliamo dedicarla alla scienza, capite? Perché poi ci troviamo dentro alle cose e non sappiamo come, pensiamo, ci rivolgiamo a Padre Eterno. Il Padre Eterno dice, ma se voi non vi aiutate da soli, come posso aiutare io? Se c'è, insomma. Quindi, se non c'è. Quindi, allora il libro adesso, l'architettura del libro, questa va bene, era una cosa che mi dovevo. L'architettura del libro è stato composto in questo modo. Prima c'è una parte, questo incontro con la poesia e quindi con queste idee. Poi c'è stata una parte descrittiva che va bene per il turista, come deve. Come si può accedere? Ci sono 5-6 itinerari per accedere al posto. E poi c'è la parte scientifica che comincia a parlare appunto di queste tre fasi della costruzione terrestre e poi alla fine c'è la spiegazione. In fondo ancora, per poter dare, come vi dicevo, scientificità a quello che io ho detto, ho portato delle cose che avvengono in natura. C'è una prima cosa che è questo. Uno scienziato Newton del 700 l'ha chiamato cono attorcigliato, lo studio dello scorrere della materia liquida si comporta in un certo modo nelle tubazioni, nei canali eccetera. Allora lui, questa qui, allora io ho trovato su una rivista questo. In questo caso nelle zone glaciali, cioè un po' sud, un po' nord, c'è il piastrone di ghiaccio sopra la superficie del mare, no? Quando arriva, aumenta il calore di primavera, allora il ghiaccio si scompone da sotto, perché sopra c'è l'aria ancora fredda, invece sotto l'acqua è più calda. Scompone questo, il ghiaccio si trasforma in acqua, ghiaccio-acqua, diciamo, e viene giù. Quando viene giù, vedete come si attorciglia, con attorciglia. Quindi questa è una dimostrazione che quello che ho detto, che è avvenuta questa rotazione di questi cilindri, può essere vero. Passiamo avanti. Seconda dimostrazione. Sul lago Michigan, questo pure si prende addirittura da internet, si trova. Sul lago Michigan, quando si ghiaccia un lago, allora c'è ancora dell'acqua che scorre, che è quel periodo che si sta ghiacciando, l'acqua non è ancora. E allora si arrotola il ghiaccio che sta sull'acqua, si arrotola e formano queste sfere di ghiaccio. Quindi questa è un'altra dimostrazione che il ghiaccio si comporta in un certo modo. Poi c'è stata questa che è proprio grandiosa, quest'altro esperimento qui. Questa è intitolata Nemo cerca neutrini e scopre vortici. Gli scienziati che lavorano lì al Gran Sasso, che studiano i neutrini, che hanno fatto un laboratorio là sotto, perché il neutrino attraversa 1000 metri di roccia per vedere come si comporta, e si comporta che lì attraversa noi, attraversa tutto, senza scomporsi per niente. Sono dovuto andare a vedere nel Mediterraneo, a 4-5.000 metri di profondità, come si comportavano questi neutrini. Cosa hanno scoperto non lo dice qui, però qui dice che sono andate per studiare i neutrini e hanno trovato sempre scopre vortici, Nemo, cioè questa cosa scientifica, questa organizzazione, diciamo, cerca neutrini e trova vortici. cioè hanno trovato all'interno del Mediterraneo, proprio nel Mediterraneo centrale, che c'era una specie di grande massa d'acqua di circa 10-15 km che ruotava dentro il Mediterraneo. Poi vi porto l'esempio anche, vabbè, questo qui è per farvi vedere, questo è quello là, Bolivia. Ah, e poi ho messo l'esempio di Gaia, cioè la terra che riesce a reagire anche a quelli, ai danni che noi le facciamo, riesce a reagire e rimette a posto tutte le cose piano piano. Allora, questo che cosa dimostra? Se poi parliamo anche dei ghiacciai, delle lingue glaciali, dove si formano i crepacci, no? Sì. Insomma, a un certo punto la materia, qualsiasi essa sia, ha un'intelligenza propria. Perché anche gli animali, come reagiscono all'ambiente? Noi come reagiamo all'ambiente? Anche la materia solida, la materia, ha una sua intelligenza. Si compone a seconda della reazione che deve fare a ciò che le viene contro. Quindi anche il ghiaccio si riesce a coordinare, a avere un'intelligenza, per cui si mettono insieme, dico, mettiamoci insieme io e te, eh? Poi si passa la voce e vengono fuori dei grandi grumi, ecco, come le sfere di cose che sono attorcigliate, quindi sì. Cioè, quindi c'è un'intelligenza della natura che fa in modo che possa rispondere a quelli che è gli ostacoli ambientali che trova. Quindi questa è una grande cosa che bisogna tenere presente. La voglia noi a dire, l'uomo, figlio di Dio, può fare quello che vuole, no? Che qui prima o poi stiamo già cominciando a parlare, specialmente gli americani, che loro sono quelli che più consumano e più badoste che stanno avendo, no? Con i fortunati. Quindi mettiamoci bene in mente che noi dobbiamo, purtroppo, i danni che abbiamo fatto sono irreversibili, è inutile che ci stiamo a prendere in giro, dobbiamo solo capire come fare per sopravvivere a quello che può succedere, capire per esempio il terremoto, di non fare le costruzioni in un certo modo, non fare in quei posti, eccetera. Capire se la casa sta, io oggi ho fatto una passeggiata proprio che mi sono proprio meravigliato, che vi voglio dire, ma l'uomo è possibile che... Sono passate per, venendo da Nuova Levante, sono passate per una strada interna che sceglie a Cardano. Sono passate attraverso delle stradine che se trovavano, ho trovato qualche macchina, per fortuna con due macchine, bisognava stare attenti perché non ci si entrava nella strada. Scegli di qua di là a casa, è fatto su un ventio così, una cosa incredibile. Come fa, quello se si affaccia alla finestra, 300 metri sotto un burrone, come fa per vivere lassù un uomo? È una cosa incredibile come si comporta, no? Questo l'ho detto pure nel libro, quando parlo dell'accesso alla Valdega, che succede che andiamo, prima c'era la gola del l'orido, e si poteva, quando si faceva quel percorso lì, c'era un tizio che aveva costruito la sua casa a fianco al torrente, e poi per divertirsi aveva fatto pure una piccola costruzione analoga alla sua casa, l'avevi ripetuta così su un massa in rapido. Adesso quello non so se ci vive più là dentro o no, però il percorso delle gallerie che ne fa ci ha tolto quell'emozione che si poteva provare passando in quell'orbita, che poi c'è quel castello lassù che sta proprio su una roccia, tra l'altro gli ho fatto di nuovo le fotografie. Che e quindi per vederlo, per decenni ci siamo passati, che era pericoloso. Ma c'è ancora la casa giù nel torrente? Sì, perché non ci si può accedere? No, con la perché casetta che aveva fatto la casetta. Ma è rimasta la casa? Lui no, non credo. Se non ci può andare, come? No, perché è chiuso proprio la strada. Perché non è più in sicurezza. Io no? Mi ricordo quando l'hanno fatto. L'uomo come insomma, noi avendo un'intelligenza, ci pensiamo di essere veramente figli di Dio, che possiamo usare qualsiasi cosa. Che avesse solo quel pezzetto là o qua o niente, allora tanti contadini o qua o niente. Sui dirupi, eccetera. Per fortuna qui non ci sono delle morte. Io mi scuso, ma purtroppo devo andare. La ringrazio intanto. No, stavo leggendo qui un pezzino di qui ci ho messo anche una serie di pensieri di vari autori, no? No, c'era una cosa proprio che riguardava il detto di del nostro grande il nostro grande alpinista Mesner, c'è un pensiero di Mesner, che cosa dice? Avere non significa nulla e osare ciò che conta. Noi ci abbiamo uno spirito di uomini che vogliamo usare chissà che cosa. Ma tante volte non ci perdiamo. Come? Però poi ci sentiamo superiori, questo è il fatto. Ci perdiamo. Non sappiamo il nostro limite qual è. Perdiamo. Piccolo così, le posso raccontare quello che io ho usato? Perché vogliono ricostruire dove è andato tutto a remengo? Scusa. Non riesco a capirlo. Devono ricostruire. Lì adesso c'è una, adesso stanno negli alberghi. Sì. Oppure ancora nelle terre. Poi ci sarà una seconda fase arriva nei casetti proprio dal Trentino. Sì. Un esempio di legno, sì. E quelle sono abbastanza robuste, sono create per i terremoti, possono. E poi dovranno fare la costruzione. La costruzione se la fanno come si deve, può essere, perché noi, se voi avete visto, io ho fatto questa riflessione, questi crolli sono dovuti al fatto che noi mettiamo un solaio pesantissimo e poi mettiamo delle pareti sottili che non riescono a tenere questo solaio. Quindi i solai creano proprio tutti compatti. Purtroppo non dovrei dirlo, c'è avuto un nipote di mia nipote, mia nipote ha avuto il figlio, una cuginetta, le due nonne e una zia, tutte e cinque morte sotto. Adesso sì. Per dirvi, proprio per questa cosa qui, si schiacciano tutti questi solai pesanti che non vengono retti più dalle pareti. Erano tutti nella pareti. Stessa casa. Sì. Stavo in vacanza poi, era una casa di seconda casa. Seconda casa. Dall'estate sono andato tutti da quei paesi, da Roma. Roma è una città piena di persone che vengono da tutte le parti, quindi si ritorna al paesello. E questa è stata proprio una cosa. Le posso dire cosa ho usato io, perché sì. Che dobbiamo usare? Nel Blettenbach si scende la stradina, sopra c'è il museo, no? Sì, sì. E poi si scende quasi una stradina, insomma, volendo, fino giù in fondo. Poi lì si cammina un po' giù sotto, si vedono tutte quelle... Ma non ha fatto le scale allora? La scala volevo dire, c'è a salire più in là, la scala pioli, oppure a scendere, ma si può scendere anche dalla stradina. No, la scala è dalla parte sì. Di qua invece si scende per... Comunque c'è la scala molto alta. Io non ero da sola, c'era mio marito, avevo un piccolo cane. Può salire sulla scala Pioli? No. Che cosa ho fatto io? Sono messo in braccio. A metà scala, a forza di Pioli, il cane non stava più fermo. Beh, se non sono caduta là, guardi, non sarei qui a ascoltare. Quel Blettenbach, io me lo vedo sempre lì. Ma poi specialmente da giovane, ne facciamo di cose... Stupide. Ne ho fatto pure io tante. Sono addirittura per i cani. Se è piccolo è un posto, i cani grandi ho visto. Ah, sì. Poi noi avevamo da sempre, io abitavo lì, avevamo da sempre un principio e credo che corrisponda un po' al vero. Sapevamo esattamente la differenza tra il catinaccio e il latte, ma il latte ma è molto un pezzetto di sasso, così non ti puoi tenere perché non ti tiene, crolla se non ti leggi. Al latte ma bisogna quasi sempre un po' come dove perché lì sono pareti di corallini, sì, la goccia è diversa. Al catinaccio ti basta un pezzetto così, ti tieni e stai là sicuro. Lo sapevamo da sempre questa differenza. Sì. Però lì ho visto, se vuoi, ho visto una fotografia da dietro il lago di Carenza, non è il catinaccio, non è il catinaccio, l'assoluto, la dietro al lago dritto intero c'è sì, il catinaccio è da questa parte, sì, è tutto da questa, il lago è così, sì. Il latte mare è così, il catinaccio sì. E poi è nascosto sì, dalla sì. Collina del Grotto, certo. Non si vede sì. Il lago, il catinaccio io non l'ho mai visto, comunque un'altra cosa a proposito della musica, no? Bisogna, insomma, secondo voi bisogna mettere tutti questi, io veramente stavo pensando addirittura di fare due o tre lì, perché io sono stato anche a fare una presentazione in una scuola, no? Sì. Istituto superiore, turistici, eccetera, eccetera. Lì per esempio bisognerebbe mettere musiche di queste canzoni moderne adattate, no? Quindi fare un DVD così, un altro DVD, una specie di questi che è più sul classico, eccetera. E poi non so, ce lo rendo un terzo, non so, insomma, voi che mi suggerireste di questo? Sì, cosa? Quella che ha messo, cioè, questo le varie melodie, sì. Poi noi avevamo talmente preso a ascoltare lei perché non avevo sì, non ci facevamo. Ma io, siccome l'esecuzione, io sono stato fu, siccome l'esecuzione non è granché, perché lo fate in fette fuori con l'assistenza di un amico, insomma, andare a fare questa. Allora non è che sono stato molto bravo, non è perfezionato, questo è il fatto. Allora non lo fate sentire tutti i difetti, perché ci ho parlato su. Va bene, però la bellezza della grazie, è bella, bella, bella, bellissima. Grazie. Cos'è? Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Sì, sarebbe la cosa che possiamo dire, ma non c'è. No, il problema, l'ultima cosa è quello che noi dobbiamo cercare di salvaguardare la. Quindi io ci arrivo proprio delle cose qui. Se l'ha un suggerimento come i vecchietti possono tornare sul catenaccio. Non ce la faccio più. Io l'altra settimana ho fatto già un livello. 7-8. Cioè, quello che prima ci voleva 2 ore, 3 ore, adesso ci vuole perlomeno 2 ore. Piano piano si può fare, però quando è così alta la montagna, che devi fare? Devi fare 2 o 3 giorni, possibilità di dormire. C'è cioè, un rifugio Pogonelle davanti e di dietro e la roda di Vaele, compagnia bella, ce ne sono ben posti da dormire. Sì, arrivare a quei 2 rifugi che stanno a dietro, così. Sì, a Paolina, sì. Sì. Paolina è lì. Mia figlia ha fatto anni fa, è pregiata adesso, ha fatto la maturità classica, doveva a ottobre iscriversi all'università. Tutta l'estate ha chiesto lei, vado a fare la cameriera a Roda di Vaelti. Sì. È andata 3 mesi. Ma cosa vuoi fare a Roda di Vaelti? No, io voglio andare su. Al pomeriggio? Sì, al pomeriggio aveva 3 ore di libro, se li ha fatto da sola. Porca la miseria, no, io ho fatto del sole, però non si fa. Sono partito dal Bolzano alle 10 e mezzogiorno ero in cima. In cima si fa il catenaccio? No, Roda di Vaelti. Ah, beh, sì, al rifugio. No, no, alla cima, sopra, la cima, sopra, sì, sì, sì. Non è molto lontana dal rifugio. Bisogna stare da dietro. Sì, sì, sì, da cima. È più lontana andare su alla cima da davanti, con il gatto. Sa cos'è il gatto? Ci vuole delle giornate. E sa cos'è il gatto? Da dietro. Il gatto. L'espressione tedesca della lega, a salire al catenaccio dal Coronelle, dietro la casa del Coronelle c'è un po' di roccia, poi si cammina un po' a piedi, si arriva via al passo, un po' di roccia, e si arriva al Gartl.